La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto amici da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, siamo arrivati all'appuntamento con l'ora di cinema settimanale qui su Radio 24, una puntata molto molto densa di contenuti, una puntata che ha preso un volto nuovo nella mattinata di oggi, quando è arrivata dalle agenzie la notizia della morte di Francesco Rosi. Le compagnie petrolifere non sono l'Occidente, sono delle società per azioni che fanno i loro interessi, punto e basta. Ma anche se ammettessimo che le grandi compagnie fanno gli interessi dell'Occidente, che cosa significherebbe? Che l'Occidente vuole tenere l'Italia come un paese di serie B? L'Occidente vuole tenere i paesi produttori di petrolio nelle attuali condizioni di arretratezza? A me non me ne frega niente di un Occidente che non ha capito che i paesi produttori fanno parte del terzo mondo. E il terzo mondo è in rivoluzione. Non saranno certo le compagnie petrolifere a fermare questa rivoluzione. La fermerà lei? No, non dico questo. Dico però che l'unico modo, non di fermarla, ma di impedire che ci travolga tutti, è di considerare il terzo mondo come un mondo di uomini e non di esseri inferiori. Erano parole profetiche quelle pronunciate nell'ambito del caso Mattei, uno dei grandi capolavori di Francesco Rosi, insieme alle Mani sulla città, insieme a Cadaveri eccellenti e a tanti altri film che hanno contrassegnato la storia del cinema cosiddetto di impegno civile italiano e non solo. Ma avete sentito in questo momento del grandissimo Gian Maria Volontè parole come Occidente, come terzo mondo, parole come petrolio? Pensate quanto ancora siano attuali. È stata questa forse la grandezza di Francesco Rosi, quella di aver saputo immaginare negli anni 60 e 70 un'Italia prima ancora che quest'Italia diventasse così, e soprattutto in certi momenti viene da dire anche ai noi, i fatti gli hanno dato ragione. Pensate appunto alle Mani sulla città, che è stato tra l'altro il nostro gioco di qualche settimana fa. Insomma, se ne va Francesco Rosi, 92 anni, tanti film da vedere e rivedere. Questa sera 23:15 sulla Rai, appunto Le Mani sulla città, ma noi lo vogliamo ricordare con un straordinario testimone interprete, un premio Oscar, Giuseppe Tornatore, che qualche anno fa, dopo un paio d'anni di relazione molto fitta con Francesco Rosi, di caffè bevuti insieme, di appunti presi su un taccuino, aveva scritto un libro intervista che spiegava chi era Francesco Rosi, e forse ci spiega anche perché Giuseppe Tornatore è uno dei più grandi narratori dei nostri tempi. Partiamo dalle parole. Cinematografo, una parola antica per un innovatore del cinema. Come mai Rosi chiama cinematografo il cinema? Beh, lui lo chiama cinematografo perché intanto negli anni in cui lui da ragazzino ha cominciato a frequentare il cinema lo si chiamava cinematografo, e quindi lui è rimasto fedele a quel tipo di parola che evocava un'imponenza, un'importanza molto particolare. E io ho sempre amato il fatto che Francesco abbia continuato a chiamare il cinema cinematografo. Qualche volta lo chiama cinema, ma nei momenti decisivi lo chiama sempre cinematografo. Un'altra parola, il professore. Una definizione che per un uomo di cinema è particolare, così viene chiamato. Sì, Francesco Rosi è nel mondo del cinema è il professore. Cioè, se qualcuno nel cinema dice ho incontrato il professore, tutti sanno che si sta parlando di Francesco Rosi. Io ho chiesto da cosa nascesse questo modo di chiamarlo, e lui mi ha detto che secondo lui è nato un po' nel mondo del cinema a causa della sua presunta precisione, volontà di essere dettagliato e preciso in ogni cosa, in ogni parola, in ogni pensiero, in ogni dettaglio del suo film, e quindi il professore. Una precisione che viene da Visconti, che viene poi dalla storia, qualcuno dice di Rosi. Beh, sicuramente nasce dalla grande esperienza che lui da giovane ha fatto con Luchino Visconti sul set della Terra Trema, di Bellissima e di Senso. Ma credo che dipenda anche da una vocazione naturale di Francesco Rosi, la voglia di essere sempre logico, il voler sempre ragionare, come avrebbe detto Sciascia, è tipico di Rosi. Cinema politico non è una bella definizione, o forse è una definizione limitata. Nel libro c'è una frase, la verità che nasce sullo schermo, è una verità, non è la realtà, è una verità diversa, sono temi che si collegano nel cinema di Rossi? Beh, lui, Francesco Rossi, dice sempre che la verità e la realtà siano due cose diverse e che lui con i suoi film ha sempre inseguito la realtà, mentre la verità è tutt'altra cosa. Questo in buona sostanza spiega anche perché i suoi film, il suo modo di affrontare certi temi, certe storie, certi personaggi, certi momenti storici della vita del nostro paese, mantengano forza e credibilità anche a distanza di decenni. Evidentemente il suo sguardo, il suo modo di rapportarsi a queste tematiche è talmente personale, talmente ispirato dalla voglia appunto di essere fedele alla realtà, da rendergli poi forza perpetua per certi aspetti. Tornando alle parole, come all'inizio, mafia, camorra, sono due parole che non si dicevano prima di Rossi in ambienti come la televisione, il cinema, non dico la parola, ma ovviamente quello che rappresenta. Beh, quando Francesco Rossi ha fatto Salvatore Giuliano nel 60, uscì nel 61, in televisione era impossibile pronunciare, non la si sentiva mai, neanche la parola camorra naturalmente, erano tematiche che gli stessi organi di stampa affrontavano con grande cautela. Rossi in questo fu un innovatore, cioè affrontò di petto questo tipo di tematica già sin dal suo primo film, La sfida, che parlava della camorra. È stato veramente un innovatore. Ultima cosa, prima ha detto lezione di cinema e di vita, questo suo rapporto 2 anni e mezzo con Rossi. Cosa ha imparato chiacchierando con lui? Che cosa aveva già imparato, qualcosa dai suoi film, credo, conoscendolo ancora di più? Beh, dai suoi film avevo imparato molte cose, oltre che avevo avuto il privilegio di vedere grandi film. Frequentandolo più spesso ho imparato che non c'è forza, che non c'è grande personalità se non c'è la capacità di essere umili, semplici e capaci di riconoscere anche i propri limiti. Ecco, in questo Franco è stato veramente un grande maestro. Così parlava Giuseppe Tornatore di Francesco Rossi un annetto fa al microfono di Chiara Pizzimenti nell'ambito di una realtà, quella della Cineteca di Bologna, che aveva organizzato un incontro appunto sul libro di Giuseppe Tornatore, libro intervista con Francesco Rossi, Io lo chiamo cinematografo. Eccoci qua, allora, dicevamo la battaglia del botteghino quest'anno, del botteghino delle feste di fine anno, è stata una notizia perché le cose sono andate in maniera diversa, forse da come ci si aspettava, sicuramente da come erano andate di solito, e soprattutto abbiamo avuto la novità vera, quella di 5 film usciti a Capodanno, il giorno di Capodanno, l'1 gennaio, con un risultato molto importante. Siccome sono ancora questi i film forti che ci sono in sala, perché come vedremo fra poco gli altri, quei 4 che sono usciti questo weekend, non è che siano destinati a rifare la storia del cinema, io ho chiamato qui in studio un amico, un collega come Stefano Radice di Box Office, che è insomma la rivista in Italia più esperta, specializzata nell'analizzare i dati di mercato del cinema, nel capire i flussi, come mai, perché, per come un film va bene, va male, quando esce, cosa incassa, eccetera. Ciao Stefano e benvenuto alla Rosa Purpura. Ciao a voi, buonasera a tutti. Allora Stefano, intanto facciamo una piccola classifica, così la ripercorriamo e ne parliamo. La battaglia è stata vinta dallo Hobbit, fin qui si potrebbe dire nulla di nuovo, una cifra che si avvicina, se non sbaglio, ai 18 milioni, 13 milioni, ecco, anche questo tra poco vedremo che è un dato importante, 13 milioni di euro. Posso dire un po' meno di quello che si poteva aspettare? Certamente, diciamo che il primo Hobbit aveva incassato oltre i 16 milioni di euro, il secondo 12 milioni e mezzo, il terzo, il capitolo conclusivo, era partito molto forte, si pensava che potesse tenere un trend tale per cui potesse raggiungere i 16-17 milioni di euro, poi dopo Natale si è un po' stabilizzato, arrivando a 13 milioni e mezzo, secondo film della trilogia di Peter Jackson su Hobbit, un buon incasso certamente, ha vinto la gara del Natale, ma poteva anche arrivare a risultati, esatto, più alti. Esatto, ed è un film, questo è importante, uscito non sotto le feste, ma una settimana prima, cioè in quella ondata del 18, se non sbaglio, di dicembre. E quindi un film che ha tentato la carta del mi becco tutte le feste, Natali, Capodanni, Epifanie, Weekend, che quest'anno sono stati molti in mezzo, perché le feste avevano una stagionalità molto particolare, e quindi forse si è anche un po' logorato nell'arco della sua lunga durata, subendo l'arrivo di film più freschi che appunto arrivavano il giorno di Capodanno, per esempio, come abbiamo detto. Certo, due gli aspetti. Il primo è che i fan dell'Hobbit non sono cresciuti in questi 3 anni. Erano un tot di milioni per il primo episodio, sono rimasti un tot di milioni, anzi qualcuno meno, per il terzo episodio. Si sono poi dovuti scontrare tutti i film con la data di Capodanno, in cui sono stati proposti 4 film di notevole spessore, si accettano Miracoli Siani, American Sniper di Eastwood, Big Eyes e The Imitation Game, che hanno tolto terreno spettatori incassi a tutti i film usciti prima del 25 dicembre, e i risultati li stiamo vedendo poi in questi giorni. Esatto, e allora andiamo proprio al secondo nella classifica generale, ma magari poi alla fine del percorso scopriremo che ha superato anche l'Hobbit. Stiamo parlando appunto di Siani e del suo Si accettano miracoli. Noi sentiamo una clip di Si accettano miracoli e poi ne parliamo. Abbiamo tagliato tutti i rami secchi dall'azienda. Ottimo lavoro, Canfora. Ma viene un tempo in cui mi state licenziando. Lei sta partendo col piede sbagliato. No, io non sto partendo col piede sbagliato, io sto partendo con una capata. Sono venuti a prenderti. Chi? I tuoi fratelli. Qua non siamo in vacanza. Tu sei sotto la mia tutela, quindi vedi di rigare dritto. Da quando ci siamo trasferiti il nostro matrimonio va molto meglio. Vittoria è diventata molto più frizzante. Allora, questo era Siani con il suo mondo, che è un po' sempre quello dei suoi film, non è cambiato moltissimo, diciamo, rispetto a quanto visto precedentemente, Stefano. Però l'idea di uscire il 1 gennaio, noi ne avevamo parlato qui alla Rosa Purpura, avevamo detto chissà se sarà magari un po' di insicurezza rispetto a una battaglia con altri cinepanettoni, chiamiamoli così, anche se non è un termine proprio, diciamo, in questo senso, o se invece è proprio aver capito che una freschezza maggiore il 1 gennaio può pagare, ed effettivamente ha pagato. Sì, c'è un precedente molto importante. L'anno scorso venne proposto, sempre il 1 gennaio, un Boss in salotto di Miniero, che superò i 12 milioni di euro a fine corsa e che fu una vera e propria sorpresa. Quest'anno Siani ha voluto riprovare col produttore e distributore la stessa data, e la scommessa è sempre vinta. In pochi giorni il film ha raggiunto i 10 milioni di euro e ha un bel passo che gli potrà permettere di crescere ulteriormente nelle prossime settimane come incasso finale anche. Invece chi ha tentato la carta della lunga durata e quindi della tenitura da prima di Natale in poi sono stati Aldo, Giovanni e Giacomo con Il ricco, il povero e il maggiordomo, che è andato bene, ma anche qui non ha fatto gli stessi risultati magari di loro film precedenti e sicuramente del film di Siani. Manca solo il nome. Dal minchia! Che idea! Geniale! Una vita che ci penso, 2 sillabe erano! Ma com'è che non mi sono venute? Guarda che sei tu il minchia! Più della buonanima di tuo padre Gaetano, che la bancarella almeno ce l'aveva. Se volete succare, succatevi me lo pini! Donne belle, venite! Venite che ho tutti i prodotti della nostra terra! Ha ragione mamma, sei un minchia! Ovviamente i film poi funzionano e non funzionano anche per la loro forza, la loro debolezza, se sono commedie, se fanno ridere meno. Chiaramente noi stiamo analizzando un aspetto, che è quello degli incassi, però per dire che per esempio Il ricco, il povero e il maggiordomo, lo abbiamo visto nei dati giornalieri, Stefano, da quando è arrivato Siani ha più che dimezzato i suoi incassi. Assolutamente, Aldo, Giovanni e Giacomo sono andati benissimo da quando sono usciti 11 dicembre, soprattutto a ridosso del Natale, tra Natale e Capodanno. Anche loro sono stati penalizzati dall'uscita degli altri titoli e di Capodanno e hanno perso progressivamente terreno. Il risultato finale intorno ai 13 milioni comunque in questo momento li premia tra i film usciti prima di Natale. Penso che loro possano ritenersi soddisfatti del risultato che hanno raggiunto, anche se siamo lontani dalle vette dei vertici dei loro grandissimi successi come Chiedimi se sono felice o anche soltanto come La banda dei Babbi Natale, che nel 2010, il loro precedente film, aveva superato i 21 milioni di euro. Ma in questi 4 anni il mercato è cambiato, l'attesa e l'attenzione verso certi film e certe commedie natalizie da parte del pubblico è decisamente cambiata e si è ridimensionata. Intanto per dare un ricordato, ieri c'era la giornata proprio fisica del 9 gennaio, mentre Si accettano miracoli incassava 325.000 euro ed era il secondo film più visto della giornata di ieri, Aldo, Giovanni e Giacomo non erano più neanche nei primi 10. E questo per dire che anche lì forse il logoramento si sente quando si sceglie di fare una tenitura di 20 giorni, cioè di partire il 18 di dicembre e sperare, come dire, di scavallare Natale, Capodanno, Epifania e andare anche oltre. Chi ha scelto bene il primo gennaio, ed è sicuramente il caso di quest'anno, almeno in questo momento, al di là del fatto che è al quarto posto in questa classifica, ma anche qui secondo me può dare ancora molto moltissimo, chissà dove lo troveremo alla fine, è Clint Eastwood con il suo American Sniper. Vedo un uomo, età militare, è al cellulare e osserva il convoglio, passo. Se pensi stia segnalando gli spostamenti delle truppe è via libera, decidi tu, passo. Magari sta soltanto chiamando la moglie. Se n'è andato in fretta. Un momento, vedo una donna e un ragazzino a 200 metri, si dirigono verso il convoglio. Lei ha le braccia rigide, trasporta qualcosa. Ha una granata, una RKG russa, l'ha data al ragazzino. Avete sentito Bradley Cooper nella clip che vi abbiamo fatto ascoltare di American Sniper, il più grande incasso della storia di Eastwood in Italia. Stefano, è un vero e proprio caso, raccontaci un po' questa sorta di caso pilota, cioè l'Italia come primo mercato mondiale, ancor prima degli Stati Uniti, per il nuovo film di Clint Eastwood. Sì, è una gran bella notizia per il nostro paese. Il film di Clint Eastwood, American Sniper, in Italia l'Italia è stato il primo mercato in cui il film è stato distribuito a livello nazionale. Negli Stati Uniti è uscito in poche sale prima di Natale, proprio per preparare la corsa agli Oscar, ma è il primo paese in cui un distributore ha avuto l'occasione e la possibilità e si è organizzato per fare un'uscita totale e complessiva è stata l'Italia. I risultati si sono visti, la data del primo gennaio ha premiato in modo incredibile Clint Eastwood. Davvero un incasso incredibile e come dicevamo, incasso storico, perché è diventato American Sniper proprio negli ultimi giorni il film di Eastwood che ha incassato di più in Italia, superando Gran Torino. Sì, American Sniper ha raggiunto 9 milioni e mezzo, Gran Torino, che era il successo precedente, il record precedente di Eastwood, è a 9,1 milioni di euro, ma American Sniper potrà crescere ulteriormente, lo aspetta un weekend fortissimo e forse anche il prossimo ancora da protagonista. Diciamo che purtroppo anche i fatti di cronaca di queste ultime ore, come dire, secondo me danno una scossa emotiva che può anche nella semplice evasione domenicale o del sabato vedere in American Sniper comunque un modo di confrontarsi a una riflessione su questi temi, perché poi qualcuno ha tacciato American Sniper di essere un film reazionario eccetera, cosa che ogni tanto accusa, che ogni tanto viene fuori con Clint Eastwood, ma a mio modo di vedere un film invece che ragiona molto sulle debolezze di un uomo che diventa la macchina da guerra che è. Inizia questo percorso come un uomo che approccia una sorta di mestiere, poi diventa il suo mestiere. E i dilemmi morali di questo film sono enormi. Assolutamente, sono tanti i fattori che hanno contribuito al successo di questa pellicola, sicuramente quello che dicevi tu è centrale ed è perfetto, c'è poi il Eastwood che è sempre un regista di grande richiamo in Italia, c'è la presenza di Bradley Cooper, un attore sempre più popolare che sta dimostrando di avere la possibilità e le capacità di misurarsi con film completamente diversi. Da Una notte da leoni ad American Sniper, ecco. Assolutamente, il tema bellico poi è di grandissima attualità e tutti questi fattori hanno fatto sì che attorno al film si creasse un'attenzione tale per cui gli spettatori di Eastwood si sono moltiplicati e si sono riversati nei cinema ad andare a vedere la pellicola e il successo ne è la diretta conseguenza. Stefano, da esperto di mercato del cinema, di box office, se American Sniper fosse uscito il 18 dicembre insieme a tutti gli altri, avrebbe fatto gli stessi incassi o si sarebbe logorato di più? Difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che probabilmente sarebbe stata ugualmente una sorpresa deflagrante e avrebbe comunque ottenuto enormi successi. Non so dire in termini di tenitura se a questo punto il film potesse avere già terminato la sua corsa a livello di incassi di box office, però sarebbe stato comunque sempre un successo dirompente. E allora, prima di lasciare Stefano Radice, i due casi un po' di questo periodo. Da una parte The Imitation Game, che è andato fortissimo, sta andando fortissimo e tra l'altro fra un po' lo raggiunge un altro film film su uno scienziato, Stephen Hawking questa volta con la sua teoria del tutto, e quindi, come dire, anche qui la materia matematica dimostra di avere un calore narrativo che al cinema funziona. Sì, sì, anche The Imitation Game sulla vita del matematico Turing sta conquistando gli spettatori. Il film sta ottenendo grandi riconoscimenti a livello internazionale, sarà uno dei candidati agli Oscar, sia come film che anche per quel che riguarda le interpretazioni dei suoi protagonisti, ed è un film destinato a crescere, un film di qualità che non piace solo al pubblico che ama il genere d'essé, ma che lentamente, poi col traino dei premi, si potrà allargare ad altri tipi di spettatori fino a raggiungere probabilmente anche i 5 milioni di euro di incasso. Adesso il film è circa 3 milioni, è già un buon incasso, ma alla fine della corsa potrà ottenere, raddoppiare anche questo tipo di risultato. E l'altro è L'amore bugiardo, Gone Girl. Qui siamo di fronte a un film strettamente drammatico, fortemente drammatico come matrice interpretativa, come recitazione, con un regista come David Fincher, che è tutt'altro che natalizio, che esce il 18 dicembre, ha già superato i 6 milioni di euro ed è un film, come dire, che ha dimostrato che un altro Natale è possibile, in un certo senso, no? Assolutamente, hai detto benissimo. Gone Girl è il classico esempio di controprogrammazione natalizia. A Natale siamo abituati ad andare a vedere o il cartone animato, il film d'animazione, il film per famiglie, la grande commedia italiana, ma da sempre proposto anche un thriller, un film per adulti, un film drammatico, la cosiddetta controprogrammazione, che riesce sempre a trovare e ottenere i suoi spettatori. Gone Girl, che è un grandissimo giallo, un grandissimo thriller, un thriller psicologico, si è fatto fin da subito strada tra il pubblico, e i 6 milioni di euro dimostrano il successo di questa operazione. E allora, L'amore bugiardo, io voglio solo citare un attimo anche un altro piccolo miracolo natalizio, Paddington, film d'animazione su un personaggio che in Italia non è particolarmente conosciuto dai bambini, che esce il giorno di Natale e supera i 5 milioni di euro di incasso. Davvero un grandissimo risultato, a mio modo di vedere, per questo film. Insomma, per tirare una somma a questo discorso che abbiamo cercato di impostare, forse è bene che la distribuzione italiana, Stefano, capisca che il periodo natalizio non è più un monolite come era magari una volta, che partiva il 15 dicembre e finiva il 10 gennaio, ma è fatto di tanti periodi che possono portare intanto prodotto molto molto maggiore nelle sale, ma anche risultati migliori. Assolutamente, rispetto a qualche anno fa il mercato cinematografico è cambiato completamente. Una decina di stagioni addietro i film uscivano l'11, il 12 dicembre e arrivavano fino dopo l'Epifania. Ora abbiamo le uscite dell'11 dicembre, quelle del 18, a volte il 25 dicembre, e si è aggiunta la data di Capodanno. Quattro periodi in cui i distributori pongono e propongono al pubblico film di grande peso commerciale, che cercano e provano a trovare la loro strada nelle sale, nei rapporti col pubblico, a livello di incasso. Non tutte le scommesse riescono. Quest'anno, certamente, dall'11 dicembre all'Epifania sono usciti 24 film. 24 film sono tanti. Alcuni si sono affermati, come abbiamo adesso visto in questa chiacchierata. Altri invece sono quasi scomparsi e caduti nel dimenticatoio, come il Bel St. Vincent con Bill Murray, per esempio, che ha ottenuto risultati veramente di fin di nicchia. A dimostrazione che c'è spazio, sì, ma non per tutti, probabilmente. Eccoci qua, Rosa Purpurea, terza parte. Dopo aver analizzato, insomma, il box office natalizio come meritava, perché c'erano dentro delle notizie, in questo caso andiamo invece a dare un'occhiata a quelli che sono i film che sono usciti in sala in questo fine settimana. Sono quattro, non è che siano destinati a cambiare la storia del cinema, come abbiamo detto. Quello che è partito meglio al botteghino nel primo giorno di programmazione è stato questo Ouija, spero di pronunciare bene il titolo, che è un thriller che definirei adolescenziale, diciamo così, con un taglio non particolarmente diciamo innovativo, ma figlio molto anche di una serialità televisiva. Ascoltiamo la clip e fra poco ne parliamo con Boris Sollazzo. Dane, ascolta, siamo tutti ancora scioccati, ok? Ma quello che mi hai detto, il fatto che ti senti in colpa di averla lasciata, è un pensiero che peggiora soltanto le cose. Avete mai la sensazione che ci sia un modo per parlare con qualcuno a cui vuoi bene anche dopo morto? È morta, non ci puoi parlare. La tavoletta non dovrebbe servire a questo. Ma hai detto che era solo un gioco o sbaglio? Se giochiamo e non succederà niente, giuro che non ne parlerò più. Ma vorrei provarci, quindi volete giocare con me? Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Eccoti qua. Allora, dicevamo, una settimana, un weekend che non è che diano fremiti particolari, non mi pare ci riesca particolarmente in termini di realizzazione, intendo dire questo USA che cerca probabilmente, forse in maniera questo sia abbastanza innovativo, un target femminile sull'horror. Ma forse l'unica innovazione, come dicevi, non ce ne sono molte altre, francamente, perché dell'adolescenziale, del cinema adolescenziale, USA prende anche quella superficialità, secondo me, visiva e creativa che hanno portato, diciamo, gli esempi più deteriori di Twilight e Hunger Games, che hanno iniziato con la voglia, forse anche eredi di Harry Potter, di cercare un altro modo di raccontare che non fossero gli adolescenti degli anni Ottanta con i loro fantasy o commedie, ma che fosse un modo moderno di raccontare. USA cerca di recuperare quello spirito in un genere che effettivamente non così spesso lo ha, però rende tutto molto più sottile, nel senso negativo, proprio assolutamente poco interessante, una scrittura fragilissima, interpreti che non ti appassionano mai, se non forse l'anziana Lin Shai, che davvero è un passo avanti rispetto a tutti gli altri, e poi francamente anche la storia, anche il soggetto ha davvero poco di interessante, quindi sono contento per USA se sta andando alla grande al box office, ma non mi sento di consigliarlo oltre, ecco. Alla grande diciamo che è un po' troppo, è partito meglio degli altri, siccome gli altri in questo fine settimana sono quasi peggio di USA, allora c'è un pochino stata la corsa al ribasso, perché subito dopo quello che è andato meno peggio è stato Come ammazzare il capo 2, che però è il sequel di un film che era stato molto divertente, lo ricorderete forse, Horrible Bosses, e questo invece veramente lascia un po' il tempo che trova. Giochiamo insieme adesso, giochiamo con la prima traccia del film misterioso di oggi. Laputa. Laputa è il nome di un'isola che fluttua nel cielo. Un'isola nel cielo? Già. E anche se si dice sia una leggenda, mio padre l'ha vista. E io la troverò e riscatterò il suo nome. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo a larosapurpurea@radio24.it e provate a vincere una copia di questo film in un video per i primi due ascoltatori che risponderanno esattamente. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. In sala, in questo fine settimana, Boris, c'è anche The Water Diviner, forse è il film, diciamo così, più da weekend di questi quattro, un po' perché lo dirige e lo interpreta Russell Crowe, che rimane, anche se magari un po' appannato negli ultimi anni, cioè non è nel momento migliore della sua carriera, però è pur sempre un nome di grandissimo richiamo. Un film però che, insomma, fa i conti con una trama, con un'ambientazione che ci riporta indietro negli anni, Prima Guerra Mondiale, quindi c'è anche un po' quell'aspetto storico-bellico che bisogna vedere quanto ancora sia un tema che sa attrarre, parlo soprattutto dell'aspetto storico, il cinema del sabato sera, il pubblico del sabato sera in sala. Sentiamo la clip. Riesci a trovare l'acqua, ma non sei capace di trovare i tuoi figli. Tre figli uccisi. Fu una vera tragedia per la madre. Li troverò, amore mio. Li troverò e li riporterò a casa. La sua guida turistica è superata? Non sono venuto per fare turismo. Sto andando a Gallipoli. Là non c'è nulla a parte i fantasmi. Le avranno detto che questa è una zona vietata. Non è sicura. Mi dispiace, ma non può restare qui. The Water Diviner, questo Russell Crowe nella doppia veste di regista e attore, Boris, funziona? Ma secondo me non è affatto male. Nel giorno in cui abbiamo saputo, il nostro cuore è pesante perché Francesco Rosi se n'è andato, Viene in mente un film come Uomini contro, in cui si raccontava la follia e l'assurdità della guerra. Non sono simili questi film, però anche qui questa morte di tre fratelli, che sono appunto i figli di Russell Crowe, in una guerra danno subito il termine di quanto sia folle, idiota, spesso demenziale il corso di una guerra. E Russell Crowe riesce a raccontarlo bene, riesce a raccontarlo con una storia particolarissima e in parte vera, di un uomo, di un rabdomante quasi infallibile, che però è condannato dalla propria storia a non trovare invece i cadaveri dei propri figli, ed è l'unica cosa che interessa all'amatissima moglie. È una storia particolare, una storia interessante, una storia che uno non potrebbe immaginare, molto ben interpretata secondo me da Russell Crowe, che dietro la macchina da presa è molto umile, decide secondo me di andare sul sicuro, affrontare una narrazione molto classica. In alcuni momenti sembra ricalcare Peter Weir, che non a caso insomma conosce bene, e riesce però a dare anche un tocco personale. Penso alla scena in cui i tre fratelli sono feriti, stanno insieme, non sanno ancora di dover morire, e in cui si sente molto il Russell Crowe, magari di alcune interviste, magari di alcune dichiarazioni e di alcune interpretazioni, dove va al di là della visione classica. È anche un film pieno di errori, un film che si vede essere fatto da un regista che non è particolarmente raffinato, e di fatto entri in sala, lo vedi, cominci a notarli questi errori, ma arrivi alla fine perché ti prende, e quindi secondo me ha vinto Russell Crowe, magari più a spallate che giocando di fioretto, ma ce l'ha fatta. Beh, del resto le spallate sono un po' la sua caratteristica, diciamo, almeno come attore, un attore molto fisico, molto, molto appunto pesante anche in questo senso. Allora, Boris, ho detto prima Come ammazzare il capo 2, un film che nella sua versione originale, diciamo così, quella che avevamo visto qualche anno fa, aveva funzionato a mio modo di vedere, apriva una strada comica interessante, cioè quella della rivalsa contro il proprio capo sul lavoro, no? Adesso non dico la solita frase chi di noi non ha odiato, insomma, ecco, questa cosa qua, ma insomma certo che c'è la figura, soprattutto nel mondo del lavoro americano, del capo che un po' tiranno, e lì si immaginavano tanti modi, tutti abbastanza grotteschi, di mandarlo gambe all'aria. In questo caso non cambia di tanto il cast di attori, che sono nomi importanti, da Jennifer Aniston a Jason Sudeikis a Kevin Spacey a Christoph Waltz addirittura, ma mi sembra che invece il risultato sia molto stanco. Ma mi verrebbe da fare una battuta, dirò che non mi è piaciuto per non farti venire dei sospetti. Scherzi a parte, Come ammazzare il capo 2 è la dimostrazione di come un sequel possa rovinare un ottimo prodotto, nel senso che il primo aveva quella forza, quella cattiveria, quell'originalità, che un mondo molto precario, in cui i rapporti di potere tra capo e dipendente diventano sempre più complicati, poteva accogliere molto bene, e infatti ha accolto molto bene. Aveva anche un grande cast, la capacità di muoverlo in un contesto comico che per molti non era quello consono, e quindi creare un effetto di straniamento molto divertente. Secondo me era stato un successo anche a livello artistico e creativo, oltre che a livello industriale. E questo è un film che, se avessimo fatto in Italia, io ricordo che abbiamo fatto un film simile, se vogliamo, che era C'è chi dice no, che era un film molto garbato, che secondo me è stato molto sottovalutato, era molto divertente, con Luca Argentero, Paolo Ruffini e via dicendo. E questo è un film che, se fosse stato fatto in Italia, ci saremmo strappati i capelli, perché ha una volgarità ingiustificata, soprattutto in due o tre scene, cerca delle scorciatoie che non sa neanche prendere, e spreca degli attori che normalmente sarebbero molto più bravi, e se vogliamo fare una considerazione quasi sportiva o calcistica, Waltz sembra in una di quelle crisi che spesso prendono le squadre italiane, insomma, un grandissimo attore che però è già il secondo film che non azzecca molto. Probabilmente avrà successo, ma solo ed unicamente perché è americano, altrimenti qui lo tratteremmo peggio di come è stato trattato a lungo nei riparenti per molto meno. Quindi ecco, un altro film che mi sento di non consigliare. Eccoci qua, I Cavalieri dello Zodiaco, dicevamo, l'ultimo dei quattro film nuovi di questo fine settimana, La Leggenda del Grande Tempio, con il tentativo di Lucky Red di provare a rifare, insomma, a riavere e a riottenere il successo di Capitan Harlock dello scorso anno nello stesso periodo della stagione. Sentiamo la clip e ne parliamo. Maestro, tu mi hai aiutato a comprendere. Se è vero che la forza dei miei colpi ti sembra ancora insufficiente, vuol dire che lo sono anche i miei sentimenti. Se c'è qualcosa che manca al mio pugno, è la determinazione. Ma anche così, ho una missione da compiere. Tu sei privo di ciò che serve per fare alcunché. No, non è vero! Boris, I Cavalieri dello Zodiaco era un prodotto con un pubblico, se vogliamo, più di nicchia, anche se molto ampia negli anni Ottanta, una saga di culto, mentre sicuramente Capitan Harlock è stato un cartoon più popolare. Mi sembra che forse questo rendesse in un certo senso un po' meno adatto questo film, I Cavalieri dello Zodiaco, a uno sfruttamento commerciale cinematografico da sala così ampio. È forse un film che si rivolge anche in questo caso più a una nicchia? Ma si sottovaluta molto, secondo me, quella nicchia, nel senso che quel tipo di manga, ha cresciuto almeno un paio di generazioni, e quelle generazioni sono generazioni incredibilmente giovani e allo stesso tempo molto nostalgiche, motivo per cui appunto Capitan Harlock, che sicuramente, come dici tu, più popolare dei Cavalieri dello Zodiaco, ma anche più raffinato, anche più raffinata come serie, ebbe quel successo, perché tutti vollero tornare a quegli anni d'oro dell'animazione, ma forse anche i propri. I Cavalieri dello Zodiaco cercano più o meno lo stesso, penso a un esempio per questa generazione, che poi è la mia, che è Zero Calcare, grande fumettista che usa spesso I Cavalieri dello Zodiaco come termine di riferimento per raccontare le sue storie. A livello comico, ovviamente, a livello parodistico, e quindi vuol dire che sono rimasti molto nella memoria. Purtroppo sono rimasti così bene dalla memoria da ricordarci anche che questo invece è un pessimo film, perché fa un doppio errore: uno, di non riprendere anche quella gioiosa approssimazione che c'era nella serie TV, quella storia, quella scrittura anche un pochino slabbrata, ma che rendeva tutto di facile comprensione e appassionante, e due, di dare una grafica troppo caricata, che nel caso di Capitan Harlock aveva sì, e anche come 3D aveva sì dato più profondità e più forza a quell'immaginario, ma qui lo cambia completamente, qui non ci si ritrova all'interno di quella comunità di dei e semidei e guerrieri che invece ci ha accompagnato per così tanti anni, quindi l'effetto nostalgia viene annullato dal fatto che ci si riconosce poco in questi Cavalieri dello Zodiaco e dal fatto che sono scritti piuttosto male, e il film è davvero sotto la sufficienza, è difficile da salvare. Detto questo, sono abbastanza convinto che al box office andrà comunque bene, perché la comunità a cui si rivolge è una comunità fedele, è una comunità che comunque non rinuncerà ad andarlo a vedere, quindi potrei anche non consigliarlo, ma tanto so che andranno comunque. E allora staremo a vedere un po' come andrà, ve ne parleremo poi la prossima settimana in sede di analisi dei risultati del botteghino. Boris, grazie e ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, andiamo a giocare ancora insieme, prima di parlare di Xavier Dolan, perché c'è una grande e unica al momento in Italia rassegna pronta a Milano. Giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Chiunque usi il potere della pietra per scopi personali attirerà solo disgrazie. Per i tesori di Laputa farei l'impossibile. Allora, la rosa purpurea @radio24.it, abbiamo giocato quasi, come dire, una sorta di slalom parallelo con i Cavalieri dello Zodiaco, sempre Giappone, sempre manga, insomma, se non avete già indovinato, provateci, perché anche qui c'è pane per i vostri denti. Se sarete fra i due più bravi e più veloci, con titolo del film e vostro indirizzo al nostro indirizzo di posta elettronica, appunto, potrete provare a vincere una delle due copie di questo film che sveleremo la prossima settimana. Allora, parliamo un attimo di una rassegna, come dicevo, che è partita proprio in queste ore a Milano, dal 10 gennaio al 1 febbraio, quindi ci sono ben 20 giorni e più di tempo per poterlo vedere. Xavier Dolan con Mommy, il suo ultimo film, quello di cui abbiamo parlato anche recentemente qui alla Rosa Purpurea, e soprattutto i suoi film precedenti, perché ne abbiamo discusso qui. Xavier Dolan è sicuramente uno degli enfants prodige del cinema mondiale in questo momento, lo vogliono tutti i festival, adesso vedremo la sua reale, come dire, corposità nei prossimi anni, ma certo, uno che alla sua età, 25 anni, ha già fatto 5 film e ha praticamente fatto breccia un po' nel cuore della critica, qualcosina la deve avere. Io chiedo conferma di questo a Matteo Pavesi della Cineteca di Milano, che appunto allo Spazio Oberdan organizza questa possibilità di conoscere Matteo, un regista che potrebbe davvero rivelarsi forse il primo fuoriclasse, diciamo così, di questo inizio di anni 2000. Assolutamente sì, Dolan è davvero il fuoriclasse degli anni 2000. La Cineteca, il cui compito è di proporre film non solo del passato, ma che transitano velocemente nei festival e poi, come dire, non lasciano traccia sul territorio italiano, ha deciso di raccogliere i 4 film precedenti a Mammy, insomma, che non sono stati distribuiti in Italia, e proporre così i 5 lavori di Dolan, che alcuni amanti del cinema hanno magari incrociato nei festival di Cannes piuttosto che di Venezia, ma che il pubblico, insomma, non festivaliero, non ha potuto ancora vedere al cinema, ecco. E allora ricordiamoli questi film, appunto: Ja tu et ma mère, Mommy, che è appunto l'ultimo che abbiamo visto anche già in Italia, ma che qui rivedremo tra l'altro sempre in copie molto belle in versione originale, e poi Les Amoureux Imaginaires, Lawrence Anyways e Thomas La Ferme, che lo aveva un po' rivelato, un piccolo capolavoro che a Venezia 2013 aveva davvero scomodato paragoni, Matteo, addirittura con personaggi del calibro di Bernardo Bertolucci. Certo, sì, poi e anche, se vogliamo, Tom ha qualcosa di Hitchcock in qualche modo. È davvero un film molto molto bello. Dal 10 gennaio al 1 febbraio andate sul sito della Cineteca di Milano, cinetecamilano.it, e vedete la programmazione giorno per giorno, orari diversi, i film sono ciclici, quindi ritornano, non c'è il pericolo di perderli, ma ne vale davvero la pena. Ti rubo altri 30 secondi, Matteo, per chiederti invece di una bella iniziativa che ha fatto la Cineteca, lo diciamo anche ai nostri giovani ascoltatori, perché per tutti i nati, tutti coloro che compiono i 18 anni in questo 2015, di fatto la Cineteca sarà gratuita per tutto l'anno. Sì, è una bella iniziativa che abbiamo concertato col Comune di Milano. Il 2015 è un anno particolare per Milano, ci sarà Expo, ci saranno tante offerte culturali sulla città, e quindi la Cineteca vuole fare la sua parte e, come dire, segnare la maggiore età. Un tempo, insomma, c'erano dei riti, c'era il militare, eccetera, eccetera, adesso tante cose non ci sono più. Segnare questo passaggio alla maturità, dando questa tessera, questa patente per venire al cinema sempre. La Cineteca propone, ho fatto un calcolo un po' approssimativo, ma sui 450 titoli all'anno, e per cui, insomma, c'è da scegliere. Ci piacerebbe che, insomma, i neo diciottenni così si misurassero un po' con proposte di cinema magari un po' alternativo, come quello di Dolan, o con dei classici che magari non hanno mai potuto vedere. Assolutamente, direi che la strada speriamo, è aperta. Insomma, ecco. Che sia un bel invito e che venga accolto dai giovani. Ma sono convinto che sarà così, Matteo, che i diciottenni da questo momento anche andranno sul sito di cinetecamilano.it e cercheranno le modalità per ottenere questa tessera gratuita per tutto l'anno alla Cineteca. Davvero ne vale la pena. Grazie Matteo e bocca al lupo per il vostro grazie lavoro. Grazie a voi. Piccola segnalazione ancora, al Teatro Manzoni di Milano dal 15 al 18 gennaio, Vorrei la pelle nera, una favola soul, commedia musicale tutta a base di musica black. Perché lo dico? Perché uno dei due protagonisti, ma stavolta in versione cantante, è Ugo Conti, protagonista di tante pellicole al fianco anche di Gabriele Salvatore, al fianco anche di Diego Abbatantuono. E allora siamo arrivati allo spazio del cinema da vedere in casa. Cominciamo con il risolvere il game della scorsa settimana. Ascoltiamo. Ti ricordi quel mio amico quando ti sei nascosto nell'armadio? Ah certo, il poliziotto svizzero. Lo vedi ancora? L'ho sposato. Ah, e allora lo vedi. E allora, si trattava di Pane e cioccolata, era questo il film con cui abbiamo giocato lo scorso weekend, un film italiano che andrebbe davvero conosciuto meglio perché avrebbe bisogno di più pubblicità, se vogliamo. È stato un grande film, però tutta una serie di generazioni recenti se l'è un po' perso. Non era così, evidentemente, per Lucia Stella di Napoli e per Greta Ardissone di Diano Arentino, provincia di Imperia, che invece l'hanno indovinato per prime e riceveranno questa coppia nuova in un video di Pane e cioccolata, della quale parliamo con gli amici di Film TV. Oggi a sostituire momentaneamente il nostro capitano di Film TV, cioè Giulio San Giorgio, c'è Ilaria Feole, che accogliamo a braccia aperte qui alla Rosa Purpurea. Ciao Ilaria. Ciao Franco, eccoci. Ciao. Raccontaci un po' questo Pane e cioccolata in un video, che cosa ci dà di nuovo e di più questa nuova versione. Certo, come dicevi tu, sarebbe giustissimo recuperarlo, e l'edizione Un Video di Lucky Red ci consente finalmente di rivalutare questa pietra miliare del nostro cinema ingiustamente dimenticata. Il film è del 1974, ma a distanza di 40 anni risulta ancora di grande attualità. È protagonista un istrionico Nino Manfredi nei panni del ciociaro Nino Garofoli, che è costretto a emigrare in Svizzera in cerca di lavoro e trova un posto di cameriere in un ristorante di lusso, ma compie un errore clamoroso di orinare in un luogo pubblico e si ritrova quindi senza lavoro e senza permesso di soggiorno. Si ritrova da clandestino a vivere un'odissea decisamente surreale, in equilibrio fra dramma e commedia, che racconta con tono grottesco il fenomeno della migrazione europea, quando però i migranti eravamo noi italiani. Il film arriva finalmente in DVD e in Blu-ray in un'edizione a disco singolo veramente eccellente, grazie al restauro a cura della Cineteca di Bologna. Al DVD ha collaborato anche la famiglia di Manfredi, che teneva tantissimo a questo film e a questa sua interpretazione, e oltre a un'immagine pulitissima, appunto, dopo il restauro della Cineteca di Bologna, prevede anche un comparto di extra piuttosto ricco, a partire dal documentario di oltre un'ora Una macchina con due motori, che comprende molte interviste sulla lavorazione del film, tra cui quella alla cosceneggiatrice Yaya Fiastri, autrice del film insieme a Ilaria. Le note della sigla ci dicono che stiamo andando un po' lunghi, abbiamo detto molto su questo film. Io ti ringrazio, ti saluto, ma dobbiamo veramente chiudere. Vi ricordo solo, perché Clint Eastwood sta facendo quello che sta facendo in sala, che martedì 13 Il texano dagli occhi di ghiaccio di Eastwood è su Iris alle 21, segnalazione TV che serviva. Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana con tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea.